Nel dodicesimo mese, il mese di Adar, nel giorno tredicesimo, quando arrivò l'ordine del re e il suo editto stava per essere eseguito, nel mese in cui i nemici degli ebrei speravano di trionfare su di essi, la situazione si capovolse e gli ebrei trionfarono su coloro che li odiavano. Gli ebrei si radunarono nelle loro città in ogni provincia del re Assuero per alzare la mano contro coloro che avessero voluto far loro del male, e nessuno resistette loro, perché il timore di essi aveva preso tutti i popoli. Tutti i principi delle province, i satrapi e i governatori al servizio del re sostenevano gli ebrei, perché anch'essi erano presi dal timore di Mardocheo. Mardocheo, infatti, era grande nella casa del re, e la sua fama si spargeva in ogni provincia, tanto che egli, Mardocheo, diventava sempre più grande. Gli ebrei colpirono i loro nemici a colpi di spada, uccisioni e massacri. Fecero quello che vollero di coloro che li odiavano. Anche nella cittadella di Susa gli ebrei fecero uccisioni e perirono 500 persone. Misero a morte Parsandata, Dalfor, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai e Vaizzata. Uccisero i 10 figli di Aman, figlio di Ammedata, persecutore degli ebrei, ma non stesero la mano sul bottino. Quando il numero degli uccisi venne a conoscenza del re, questi disse alla regina Ester: «Nella cittadella di Susa gli ebrei hanno ucciso 500 uomini e i 10 figli di Aman. Nelle altre province del re, che cosa hanno fatto? Che cosa chiedi di più? Ti sarà dato. Che cosa desideri perché ti sia fatto?» Ester disse: «Se sembrerà conveniente al re, sia concesso agli ebrei di applicare ancora domani l'editto come hanno fatto oggi, e i 10 figli di Aman siano appesi a un patibolo». Il re disse che così fosse fatto, e fu promulgato un editto nella cittadella di Susa, e i figli di Aman furono appesi al patibolo. Gli ebrei che si trovavano a Susa si radunarono anche nel 14° giorno del mese di Adar e uccisero a Susa 300 uomini, senza tuttavia stendere la mano sul bottino. Gli altri ebrei delle province del re si radunarono per difendere le loro vite e aver tranquillità da parte dei loro nemici, e fra quelli che li odiavano uccisero 75.000 persone, senza metter le mani sul bottino. Era il giorno 13 del mese di Adar. Il 14 si riposarono e fecero banchetti e allegria. Gli ebrei che si trovavano a Susa si radunarono il giorno 13 e il 14 dello stesso mese, e il 15 si riposarono, e nello stesso giorno fecero banchetti e allegria. È per questo che gli ebrei sparsi qua e là, che abitano in città lontane, il 14 del mese di Adar fanno allegria, banchetti e festa, e si scambiano doni. Mardocheo mise in iscritto tutte queste cose e mandò lettere a tutti gli ebrei che si trovavano nelle province del re Assuero, in quelle vicine e in quelle lontane, per impegnarli a festeggiare ogni anno il giorno 14 del mese di Adar e il giorno 15 dello stesso mese, essendo questi i giorni nei quali gli ebrei ebbero pace dai loro nemici, e questo il mese in cui la loro sorte cambiò dall'angoscia alla gioia, dal lutto alla festa, diventando questi giorni di festino e di gaudio, di scambio di doni e di offerte ai poveri. Gli ebrei accettarono come una istituzione quelle cose che avevano cominciato a fare e che Mardocheo aveva scritto loro. Aman, figlio di Ammedata, la Gaghita, persecutore di tutti gli ebrei, decretò di sterminare gli ebrei e gettò il Pur, cioè la sorte, per massacrarli e distruggerli. Ma quando la regina Ester fu entrata alla presenza del re, egli ordinò con uno scritto che la malvagità che Aman aveva tramato contro gli ebrei ricadesse sul suo capo e fece impiccare lui e i suoi figli al patibolo. Perciò quei giorni furono chiamati Purim, dalla parola Pur. In conseguenza di tutte le cose dette in questa lettera e di quello che avevano visto ed era accaduto loro, gli ebrei stabilirono di assumersi l'impegno, essi e i loro figli e tutti coloro che sarebbero venuti a unirsi a loro, di non mancare di festeggiare questi due giorni, secondo quanto era stato scritto, al tempo stabilito ogni anno. Questi giorni vengono ricordati e festeggiati in ogni generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia e città, e i giorni di Purim non spariranno in mezzo agli ebrei, e il loro ricordo non si allontanerà dalla loro discendenza. La regina Ester, figlia di Abicail, e l'ebreo Mardocheo scrissero con piena autorità per confermare questa seconda lettera relativa ai Purim, e mandarono lettere a tutti gli ebrei nelle 127 province del regno di Assuero, con parole di pace e di fedeltà, affinché osservassero questi giorni di Purim nel tempo stabilito, come avevano deciso l'ebreo Mardocheo e la regina Ester, e come avevano stabilito per se stessi e i loro discendenti riguardo ai digiuni e ai lamenti. Così l'ordine di Ester fissò la prassi di Purim e fu scritta in un libro.